Quasi a ciascun membro del consesso civile capita una volta nella vita di dover scegliere l'acqua minerale. Trattasi di scelta delicata perché è l'acqua minerale, più o meno come il dentista, è per sempre. A meno che, come è stato il mio caso, l'acqua minerale sia stata abolita dal suo supermercato per eccesso di ribasso nella società opulenta, così come il mio dentista, a causa della medesima società opulenta e senza bisogno di ribassi, è stato preso da un coccolone che se l'è portato via. Orbene, da qualche giorno nel mio quartiere è in atto una guerra fra acque minerali. Prima mi ha telefonato la Frisia per darmi a bere 6 bottiglie gratuitamente, non prima di aver selezionato con cura il tasso di bollicine che fa per me. Non ho fatto in tempo a buttar giù la Frisia, che ha telefonato la Norda per offrirsi meno gratuitamente, ma in 12 bottiglie a prezzo scontato. Non indugerò sull'analisi organolettica ed ideologica dei due prodotti, né starò a farla lunga sul fatto che in entrambi i casi l'acqua minerale si è rivelata un cavallo di Troia per far entrare in casa mia tutta una serie di altri prodotti che con l'acqua presumibilmente non c'entrano affatto, perché non mi possono venire a dire che l'olio di frantoio umbro, il vino di fattoria toscana, il formaggio del Casaro Emiliano e il caffè dell'indefesso Sambatore brasiliano siano tutti fatti di poco più o meno di H2O più anidride carbonica o variamente razionata. Trascurerò questi ghiotti argomenti e attirerò invece la vostra attenzione sull'argomento comune di cui entrambe usufruiscono comunemente. Quel valore fondamentale che vorrebbe arricchirle nei confronti delle altre acque minerali. Infatti, quando mi son messo a fare le solerti divisioni in grazia delle quali avrei dovuto scegliere in base al prezzo fra queste due in offerta e quella che vado invece a prendere settimanalmente al supermercato, e quando è apparso chiaro anche per i più digiuni di scienza finanziaria che quella del supermercato costava meno, la mia mamma, pia donna ma facilmente vittima delle suggestioni del capitalismo maturo, la mia mamma ci ha tenuto ad aggiungere: sì, d'accordo, questa costa meno, ma quelle te le portano a casa. E qui la volevo. Per cui alla cara vecchina ho risposto quanto segue. E qui che ti volevo incauta. Me lo dici come un valore, il fatto che te la portino a casa, come un pregio, come un attenuante e non come un aggravante, un disvalore, in vero pesante e affliggente, un passo in più verso quel baratro scavato dalla cosiddetta libera concorrenza che la gran cassa del regime persiste a designare come progresso, quel baratro che ineluttabile tutti ci attende. Te la portano a casa? Ma bene. E se te la portano loro, parliamoci chiaro, se te la portano loro vuol dire che non te la porti più tu, perdendoci dunque in quel sano esercizio fisico e morale che, mantenendoti in vita quel po' di funzioni animali che ti rimangono, ti allontana dalla tomba. E non solo, chi la porta secondo un antico contratto stipulato nella notte dei tempi, chi la porta l'acqua minerale dal supermercato a casa nostra? Chi la porta? Mio figlio che così contribuisce per quel poco, per quel minimo che contribuisce alla sopravvivenza della famiglia, collaborando alle sue necessità fondamentali. Mio figlio che dalla fatica del trasporto ne guadagna in stima di sé, per l'aiuto che ci dà, in vigoria fisica, per il peso che trasporta, e in affetto, per quel che conseguentemente noi assetati riversiamo sulla sua persona di dissetante. E tu, eh? E tu, o stolta, vorresti negargli quest'intima e plurima soddisfazione? Mm? Non erano forse vivi ancora i nonni? Non era forse ancora vivo papà quando si andava con i sicchi a prendere l'acqua dal pozzo? Mm? Da ciò non conseguiva forse quell'unità della famiglia che con il progresso costituito dalle acque minerali, dai relativi sistemi di distribuzione è andata distrutta? In quello sforzo, quello dei sicchi di ritorno dal pozzo, in quello sforzo non ritrovavamo forse tutta la solidarietà e l'orgoglio di cui eravamo capaci? Pensa a quanto un giorno a venire ti maledirebbe il tuo amato nipotino se gli togliessi quest'onere. Te la portano a casa? Bene, questo sì che è un ottimo motivo per dirgli di no. Questo porco regime praticamente non mi consente più un solo voto che abbia il significato della mia opposizione, ma almeno la minuscola compensazioncella di un atto di rivoluzionario diniego, un'ultima obiezione oligominerale, non me la possono ancora impedire. Te la portano a casa, ma non sai che è dalla sostituzione del nostro lieto operare con qualche tristo marchingegno, si chiami leva, ruota, cavaturaccioli o scaldabagno, che ha origine la putrescenza irreversibile del nostro pianeta? Non sai che è dalla pigrizia che nasce l'ingegno e che da lì in avanti gli intellettuali non ci se li toglie più dai piedi? Te la portano a casa? Beh, se la tengano. Noi non siamo né frizzanti, né lisci, né tantomeno ferrarelle. E più o meno così ho parlato alla santa e sventata donna di mia madre, che mi è stata ad ascoltare scuotendo leggermente il capo incanutito, e più o meno così spero di aver risparmiato, finché acqua minerale non ci separi, circa 110 lire a bottiglia, che con i tempi che corrono e soprattutto con quelli che correranno costituiscono un bel gruzzoletto che prima o poi potrà tornare utilissimo.